Valeria Trevisan e la biblioteca. E per me queste presentazioni sono sempre anche l'occasione per riflettere sull'attività che porta a questa scrittura creativa, poesia, se si vuole chiamare così. E anche questa volta l'ho fatto. E devo dire che sono sempre un po' teso e preoccupato prima di queste cose. Stavolta sono proprio molto preoccupato. Perché è maturato il pensiero, è giunto veramente a completa maturazione, che il poeta non esiste, e anche la poesia non sta nelle parole. Io mi sono proprio convinto che le parole sono più che altro una specie di promemoria, una traccia per cercare di tornare là dove è nata la poesia. Quindi se io mi limitassi a leggere queste parole, non succederebbe niente qui. E questa è la mia preoccupazione, che vorrei portarvi con le mie parole là dove sono nate. E questo mi dà molta preoccupazione perché è anche bello così, perché ho qualcosa da fare qui, no? Potrei mettermi lì a leggere le parole, ma poi non succede niente. La poesia, quindi, non sta nelle parole e non è quindi lingua, è una situazione, secondo me. È situazione e il poeta, perché io in questo momento non sono il poeta, sono una persona come voi che cerca di portarvi appunto là. Quindi vorrei che magari cerchiamo di fare una cosa tutti insieme, in modo che voi ascoltate, sentite le mie parole, ma ascoltate voi stessi, perché secondo me ognuno ci arriva solo attraverso un proprio percorso là, dove sono nate le parole. È un percorso completamente, assolutamente individuale. Quindi la poesia è una situazione che può esistere per alcuni e non per altri. Quindi vi auguro a tutti noi buona poesia. Dunque siete voi, gli uomini e le donne del mio tempo, sparsi la domenica, senza calze e senza scarpe, sul prato del parco. Siete voi che aspettate sul bordo di strade innescate a nuovo, pronte a esplodervi addosso per un nulla, un passo falso da un momento all'altro. Siete voi che i piccioni guardano curiosi con la coda dell'occhio mentre si rincorrono. Siete voi che mi state in gola con le vostre facciate piene di fumo e di voglie di carta. Dunque siamo noi che dovremo dividere il pane, che ci riconosceremo da lontano, noi che ci ameremo anche se non ci piacciamo. Noi ad essere passati insieme sotto questo cielo, proprio questo cielo. Noi, in questo nuovo paese, che non possiamo che continuare ad essere esseri umani. Anche così, sempre solo sui primi gradini, è sempre lo stesso un atto d'amore. Ascensor Noster. Ascensore, che stai da sempre nel tuo squallido quartiere a Via Tola 42. E non ti lamenti mai. Dimmi, come fai? Noi ti sfregiamo, noi ti scrostiamo, eppure ci porti ogni giorno al nostro piano. Anche quando ti lasciamo, tu non te ne vai, non lasci mai la tua orbita diritta. Da te, ascensore, ho imparato ad amare questa vita, perché io posso uscire dal palazzo e muovere verso l'alberone o la circonvallazione, fosse pure un solo passo. Caro ascensore, c'è tanto dolore in giro. Noi questo lo dimentichiamo, noi questo non lo vediamo, perduti come siamo nell'universo e nella storia fatta di giorni tutti uguali. Ascensore, ascensore, fatto di legno, di maglie di ferro, di funi e di un motore. Guardami tu, povero me, costretto a parlare a te, perché anche là fuori ci sono solo rotelle, ingranaggi e macchine e motori e zombie e uomini con la testa all'ingiù. Tu ci ricordi che ci sarai, anche quando noi non ci saremo più. Rosse sulle ali. I mulini ruotano maestosi, soli, in cima alle colline, grandi come dei. Gli alberi in riva alla Ruhr disegnano sull'acqua un fondo più vicino e il dente di leone, un po' più in alto, ride felice come i suoi fratelli e infreddolito per la primavera che non viene. Il merlo sta col becco giallo, puntato sull'asfalto, la testa indietro, le piume nere ancora mosse dal vento. Le macchine, accorte, gli passano accanto, con le marce alte e le barbe bianche ringhianti scolpite sul mento. Samstagabend. Die Menschen promenieren durch die Stadt und beißen sich nicht. Ich höre die Laternen sprechen am Samstagabend und die Werbesäulen. Die Straßen sind tot. Aus dem kalten Hauch der blätterlosen Bäume empfange ich Wärme und merke, ich lebe. Catalizzazioni d'anima. Sono tuoi anima questi brividi o del vento? che soffia e non porta nulla? Polvere e sudore ancora sulla pelle, Alberto guarda il cielo, puro di pianeti e di stelle. Il mare urla, gli uomini passano e non sentono. Lungo cammino l'onda giunge a riva, bianca di schiuma. Sei leggera anima stasera, immobile gabbiano sul vento. Queste erano proprio specie di haiku scritti durante una vacanza ad Ascea Marina, la patria di Parmenide. Allora era Elea, oggi si chiama Ascea Marina. E il testo prima, uno di quelli che mi sono venuti, che ho registrato in tedesco, diciamo. Le strade e le chiese. Persino in queste strade calpestate, in questa piazza strapiena del sabato sera prima di cena, amo la vita. Il vecchio si siede sulla mia panchina e dice all'amico: hai visto quella vulva? Proprio così, ha detto, mentre una donna rompeva con i denti il sacchetto di carta per fare respirare la piadina. La strada parla al portico, il portico parla alla chiesa. Si sente bene dalla piazzetta Edoardo Fabbri. Parlano senza parole, ma cosa si dicono? Affino l'udito, tendo l'orecchio. Un cane sale le scale, passa stupito un ragazzino. Ora sta in piedi, impietrito, con le scarpe sporche di terra. Anche loro parlano, voci senza voce, e fuori, totalmente fuori dal coro. Mi dice: è il suo? Il cane. No, un miracolo, tre parole che si sentono. E va e viene il bambino. Bello rivedere un po' di vita di tanto in tanto. Fra questo movimento, in questo brulicare, che per quanto mi sforzi non sento. Si può dare in prestito la fede? E si può, se fa male, ritirare l'amore? Il fiume di sotto pare rassicurarci con i suoi gorghi d'argento, dirci che non può finire. Ma il ponte, costruito con tanta scienza, tanta perizia, quanto può durare? Noi non ci capiamo, ci parliamo sempre di striscio. Le amicizie sono volatili, possono finire in un attimo. Ma da dentro ci parlano le strade e le chiese e le vicinanze che non finiscono. questo è un testo che mi ha stupito un po', perché mi chiedo come sia possibile dopo tanti anni, non so neanche tanti, comunque ci sta una generazione fra me e queste cose, emozionarsi ancora tanto per questi avvenimenti. E mi stupisco poi di parlare con ragazzini di 20, di 16, 20 anni e non sanno cosa sia il fascismo. Proprio non ne hanno un'idea. E non hanno un'idea del dolore. E il dolore parla più forte. Ed è questo che registro. Madre, seduta sul legno, con il suo feto ancora appeso al cordone ombelicale, nell'aria l'odore di carne bruciata nella piazza del paese della Versilia. Staffette d'assalto. Fratelli con strane bandiere a spargere dolore in un angolo di universo. Con il suo feto ancora appeso, nella tempia un foro, nello sguardo stupore, continua a tenere gli occhi aperti sul filo del rasoio, senza tempo, senza senso, che ha squarciato la sua pancia e piange e piango. Sul filo del rasoio corrono, se non vedono la morte, i nervi della vita. Questa città, costume blu attillato, i minotauri vanno su e giù sul bordo della piscina al lido. Le vitelle distratte non guardano. E anche quel luogo così verde, disseminato di idranti che partono troppo presto, è nell'universo. Le luci controllano e al minimo passaggio si accendono. Gli sguardi, solo a essere sguardi, rubano, violentano, uccidono. Sarebbe necessario un Nettuno che venisse a portare la semplicità delle onde e l'intelligenza dei pesci. Basteranno le generazioni, basteranno i secoli per diventare meno italiani e più donne, più uomini? Dalle montagne scivolano domande sul perché qui ora e non più altrove. Finalmente, percezioni del mondo distorte dall'alcol e dalla nicotina, ma ancora di più dai libri di logica di economia di mercato, che dice che prima si è primi e poi felici, lentamente se ne vanno. Ritorna il silenzio paziente e almeno 2 ore ancora di sonno. Andata. Che mistero la tua bellezza su questo treno. Per le ciliegie c'è ancora tempo, sono ancora verdi, al massimo rosa. E le scale a pioli ancora sono lontane. E si corre fra le montagne, su cui in poche settimane è cresciuto un tappeto verde. Una voce annuncia le fermate e fra una stazione e l'altra tace. Ormai la tua bellezza ha preso altre strade. Con uno zaino giovane sulle spalle e un domani paziente e ineludibile al fianco. Almeno avessimo imparato che siamo soli di fronte alle stagioni e che le stagioni senza di noi non passano. E invece continuiamo a rincorrere sentieri nuovi, vecchi di mille anni, accesi da dentro da una luce abbacinante e sui quali non arriveremo mai. Sul tram e oltre. Ormai avanti d'età, col cappellino bianco e gli occhiali scuri, grandi da moscone, rumina cicca e si sente grande, proprio bene, con la mano forte avvinghiata al tubo di ferro freddo del tram. Un fazzoletto di seta sotto il bavero della pelliccia nera vera che non serve a niente e stona. Che pena non essere arrivati da nessuna parte, farsi cadere le guance così. Ora è seduta, l'apoteosi sboccia dalla borsetta. Una rivista tutto colori e prezzi e sconti speciali, proprio per la signora nel tram con gli occhialoni neri e il cappello di feltro color panna tirato giù di dietro. Giunto a fine corsa, il tram spegne il motore, ma lei non si alza ed io ormai sono altrove, insieme a tacchi a spillo e montoni beige con sciarpa rossa e cappelli neri a tesa larga. Quasi mi imbarazza. Forse il vigile è lì fuori per me e al momento giusto mi arresta. Questa falsa ricchezza che arriva a valanga crea combinazioni orrende di colori e colori orrendi. Che pena, che pena. L'albero di Natale accanto agli aranci da spremere. Grazie alla mia lingua, così a disposizione e pronta a rispondere ai sensi. La piazza, che ha confuso nome e cognome, oggi è calpestata dalle macchine in esposizione. Sullo sfondo, il Duomo col tetto a rombi, due cani al guinzaglio, un piccione passeggia fra i piedi della gente. Sarà così anche altrove la vita. Zurück nach Neuss. Mars, Venus, Jupiter und die anderen Sterne des Morgens sind klarer. Die 555er streckt sich aus, wie die samtenen Glieder meiner Schönen und Neus einem blauen Feld. Ich will nach Neuss. Vielleicht, weil diese ganzen Brücken über meinem Himmel und weil ich nicht weiß, ob ich ein Apotheker oder ein Mörder bin. Ich will nach Neuss. Ja, ja, morgen nach Neuss. In Neuss werden wir ausschlafen. In Neuss werden wir uns lieben. In Neuss werden wir brennen um unsere Herzenslager. Aber heute noch Dunkelheit, noch Mainz, noch Klirren von Maschinen und Schwertern, noch Tanzen gefangen im Rennen der Stunden auf Autobahnen und Schimpfen. Weil Vögel und Wolken da oben noch frei vorüberziehen. In Neuss werden wir uns ausziehen, werden unserem Atem die Zeit geben zu sterben. Wir werden auf dem Karussell der Gefühle aufsteigen und spielen, bis es und spielen, auch wenn es zu spät wird. Wir werden aussteigen aus dem Bann des Bruttosozialprodukts. Zurück nach Neuss, zurück zu Fuß. Erneut bereichert mit unserem Frieden, versöhnt mit unserer Armut. Quando Dio muore, anche l'uomo muore. La luna ieri ha visto la terra in panne, l'ha allattata, l'ha accarezzata con le sue mani bianche, dalle cime con l'erba ancora schiacciata dal peso dell'inverno fin giù nei seni, con le api ronzanti abbandonate al sonno dei loro alveari. Quando lassù le stelle chiudono gli occhi, allora anche l'uomo muore. Sui campi arati senza papavero e senza volpe non cresce il grano. E non credere di continuare a vivere solo perché sono altri a cadere. Povero uomo d'Occidente, senza più un cielo che si fa bello per te. Uomini, dicono le onde. Dite, uomini, che fate lì così vicini a noi che vi culliamo? Perché non ci vedete? Sono forse le guerre o la fame a farvi piangere? E allora perché anche in pace piangete? Uomini, dicono le onde. Dite, uomini, sono forse queste spiagge così sottili a dividerci, a farvi ciechi al nostro colore da bere, sordi al nostro tornare, tornare. Uomini, dicono le onde, dite uomini, perché ripetete sempre le stesse cose e misurate il vero a palmo, ma non volete vedere che tutto è polvere per voi e non torna? Uomini, dicono le onde, dite uomini, perché fate scorrere tanto sangue fuori dalle vostre vene, quando tanto buono è il sole caldo dell'estate e buono in inverno il caldo delle case? Uomini, dicono le onde, dite uomini, cosa c'è che non capiamo? Cosa c'è che non ci dite? Da quali altezze rovinano sventure che travolgono ragioni altrimenti tanto progredite? Uomini, dicono le onde, ma non vedete? È carico di neve il vostro cielo. Neve per la terra che ha gran sete di respiri profondi, di silenzio e di quiete. Ho letto tutto in una volta, non mi sono fermato. Come nasce una poesia? Per quanto mi riguarda, la mia esperienza è che lo scrivere è l'ultima cosa. E lo scrivere consiste soprattutto nell'ascolto, nel sapere ascoltare e nello stare a disposizione delle cose, perché sono le cose che dettano le parole. Quindi è più che altro silenzio scrivere e lasciar parlare le cose che hanno tanto da dire, soprattutto nel nostro mondo così rumoroso in cui crediamo di dover dire tutto noi, no? L'osservazione, certo. L'osservazione e la coltivazione anche poi della propria sensibilità è questo che è l'attività dello scrittore, consiste nel tenersi disponibili, nel coltivare lo spirito in modo che sia pronto ad accogliere, ad captare queste frequenze, no? delle cose quando si esprimono. Socrate diceva, non ha scritto niente prima di tutto, e comincio a capire perché non ha scritto niente, perché non servono davvero a niente le parole, se una persona non li compie da solo certi percorsi, le parole non servono. E Platone, che era il suo discepolo, ha scritto qualcosa, però diceva sempre, guardate che quello che voglio dire non sta lì, è nell'incontro con i discepoli, nella scuola, se volete sapere, è l'oralità, la parola orale che conta, lo scambio, il fare insieme i percorsi. Io con i giovani ho fatto belle esperienze, fino a una certa età. Da una certa età in avanti mi sembra che si perdono. Anche i bambini sono ancora sensibili, sono ancora disposti ad ascoltare. Poi diventa molto difficile. Dipende anche da dove crescono, dove si sviluppano. Se un bambino in una città dove non ha mai visto l'erba, non sa neanche se le carote crescono sopra o sotto la terra, e se non si ha sensibilità per le cose, non si capisce neanche la poesia, secondo me. Bisognerebbe andare nelle scuole. Loro non vengono, no? Evidentemente. Forse bisognerebbe andare più nelle scuole e cercare di fargli capire in che modo la poesia non è una cosa campata in aria, è una cosa utile, è conoscenza, conoscenza indispensabile, è un orientamento che ci manca. Non solo la poesia, anche le parole della filosofia, i segni dell'arte. E bisogna far capire che queste cose sono conoscenza. Conoscenza non della ragione, noi ne abbiamo anche troppa nel mondo moderno, conoscenza dei sensi. Vuol dire che effettivamente da un'indagine è emerso che c'è bisogno di coltivare di nuovo il pensiero e soprattutto un'impostazione anche filosofica nella percezione e anche nella preparazione delle persone, che manca perché ormai è tutto informatizzato e si dà la insomma, una priorità, ecco, nel fare. È molto importante l'approccio che si ha, no? Magari un giornale potrà anche fare un'operazione del genere. Bisogna vedere prima di tutto perché lo fa, perché magari non sia solo una cosa di marketing, che loro hanno fatto un'indagine, no? E hanno appreso che un'operazione del genere potrebbe essere proficua, no? Dal punto di vista proprio del profitto. E allora la fanno. Sarebbe bello se lo facessero non lo so, no? Magari con intento. Sì, oggi è uscito mi sembra il Corriere della Sera, il primo numero di una serie di opere della letteratura italiana a fumetti, no? I Promessi Paperi. No, questa cosa è bella, no? Ho avuto una bella sensazione. Si avvicina appunto ai bambini. No, poi bisogna vedere, serve sempre la guida, una persona che ti faccia capire certe cose. Altrimenti, ho avuto la fortuna di avere un grande maestro di filosofia che ti guida. E all'inizio è sempre necessaria una persona, non che insegna qualcosa, ma che ti guida, che ti dà una certa, che ti apre una strada che poi ognuno deve fare da solo, no? Non è che il grande maestro non ti dice mai che cosa devi capire, ti guida. E qui sarebbe bello se una operazione del genere fosse accompagnata anche da una guida, perché è così importante la filosofia oggi, no? C'è una bella storia della filosofia di Christoph Helfferich, credo che sia solo in tedesco purtroppo, è bellissima, con una bella bibliografia, perché fa capire per quale motivo è importante la filosofia. Qualcuno ha domanda o sensazioni, impressioni? profonda che prima ogni tanto mi ha entrato. Questa c'è una storia dietro a questa dell'ascensore. È una bella storia. È a Roma, c'è davvero via Tola 42, e in questo edificio, in questo quartiere un po' fatiscente, c'è una persona ammalata di sclerosi multipla, però con un'energia incredibile, che ha fatto la galleria più piccola del mondo nell'ascensore. L'ha chiamata Lift Gallery. E ha riscosso tantissimo successo, cioè, la RAI ha fatto per le notti bianche, no, la notte bianca si chiama, come quella iniziativa, no? Data la RAI, ha fatto un servizio e mi hanno invitato due o tre volte a stare con loro, insomma, sono un po' della famiglia e appunto l'ascensore mi ha dettato queste cose. Grazie. Grazie. Beh, non solo quella, ecco, adesso quella mi ha colpito particolarmente. Sì. Allora è successa poesia, un po' almeno oggi pomeriggio. Ah, questo è un miracolo. Sono questi miracoli, mica altri, eh? Ah. Oh, che bello. Il mio terrore di perdere tempo, no? Di annoiare, no, perché ce n'è talmente poco. Un sollievo, guarda. Grazie. Non solo in questa occasione, ma anche durante l'anno, di creare dei momenti, delle occasioni per leggere delle poesie, e penso che ci sarà un'altra occasione anche per sentire di nuovo le poesie di Maurizio. Sarebbe bello anche cogliere queste occasioni per creare una specie di forum, un circolo, una sensibilizzazione, no? Perché, e quindi avevo anche voglia, se volete, di raccogliere. Oggi si parla di indirizzi email, non so se voi avete la posta elettronica, comunque di raccogliere, magari, se avete voglia di lasciare il vostro indirizzo anche normale, e se poi ci sono iniziative o così siamo un po' in contatto anche. Se è possibile lasciare, se ne avete voglia di lasciarmi su un foglio il vostro indirizzo, poi vi posso mandare informazioni o... Tu poi dai pure il mio indirizzo a chi lo chiede, non c'è problema. Molto volentieri. Stiamo in contatto, allora. Grazie mille per essere venuti. Grazie.